America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Adele, Hello, ha vinto ieri i Grammy Award per la canzone dell'anno. Beh, direi, al di là delle classifiche, grandissima serata per celebrare la musica americana e internazionale. È una grande festa, vi dicevo, perché c'è uno spettacolo nello spettacolo. Sentiamo. Ecco, questa era Beyoncé, incinta di due gemelli. Durante la premiazione, ha fatto una sua performance. Siamo arrivati alla 59esima cerimonia dei Grammy Awards, che, come sapete, sono gli Oscar musicali. Il presentatore della serata è stato James Corden, che devo dire è sempre spassosissimo, divertentissimo. Corden, tanto per ricordarvelo, è quello che ogni tanto appare in macchina con un cantante famoso e si mettono a cantare divertendosi una qualunque canzone. Tutte le grandi star a questo punto fanno a gara per apparire con lui. Ecco, altro premiato importante da menzionare, secondo me, è David Bowie per il suo ultimo album Black Star. Era morto, come ricorderete, per cancro e la giuria gli ha dato ben 5 premi, tra cui quello per la migliore performance rock. Il Grammy Award per il miglior artista esordiente, invece, è andato a Chance the Rapper. Anche l'Italia ha partecipato a questa grande festa. C'era, il grandissimo Andrea Bocelli, il grande tenore Andrea Bocelli, c'erano Laura Pausini, il maestro Ennio Morricone, tutti menzionati fra i migliori artisti dell'anno. Bene, passiamo però alla politica. L'ho messa in secondo piano questa volta perché non voglio sempre tormentarvi con notizie che riguardano politica interna o politica internazionale. Donald Trump ormai per il secondo weekend consecutivo è andato a Mar-a-Lago, è andato in Florida, Palm Beach che è un po' al centro dell'attenzione perché buona parte del cabinet di Donald Trump è a Palm Beach. Questo settimana, per esempio, Steven Schwarzman, che è il fondatore di Blackstone Group, ha fatto una grandissima festa per celebrare i suoi 70 anni. C'erano 400 persone, c'era il ministro del tesoro Mnuchin, c'era il ministro del commercio, hanno tutti le loro case a Palm Beach. Dunque, in qualche modo, è il posto che diventa sinonimo dell'amministrazione Trump. Ecco, Trump non è andato alla festa, probabilmente ci sarebbe anche voluto andare, ma non poteva per questioni di sicurezza. Tra l'altro, Steven Schwarzman è il presidente del suo gruppo di consiglieri economici privati del mondo degli affari. Ma ci sono state anche notizie, come dire, di provocazione. Per esempio, la Corea del Nord ha lanciato un test missilistico. Ecco, devo dire, Donald Trump non ha reagito in modo particolarmente aggressivo, ma sono certo che avrà qualche cosa in serbo per Kim Jong-un. Tra l'altro, ospite suo questo fine settimana a Palm Beach c'era il primo ministro giapponese Abe. Si sono incontrati anche in una visita a Washington. Sentiamo. Just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind Japan 100%. Ecco, dopo qualche polemica col Giappone per concorrenza sleale, per svalutazione, eccetera, eccetera, Trump è un pochino rientrato nella tradizione e ha detto, lo avete sentito in questa dichiarazione che ho fatto ascoltare, ha detto: voglio che tutti capiscano e sappiano che gli Stati Uniti sono al 100% al fianco del Giappone, che resta un grande alleato. I punti chiave del dialogo sono stati gli stessi, grande alleanza sul piano commerciale, su quello della difesa. Gli Stati Uniti ovviamente fanno la sponda con il Giappone per cercare di contenere la Cina. E sul fronte della difesa, gli Stati Uniti non ritireranno le proprie truppe dal Giappone, ma chiederanno in cambio un compenso monetario. Thank you, Mr. Chairman and Ranking Member Reid. It's an honor to come before you for this confirmation hearing as the President-elect's nominee for the position of Secretary of Defense. Ecco, vi segnalo, questa settimana si parlerà molto di sicurezza, di NATO. Il nuovo segretario della difesa Jim Mattis, avete sentito una sua dichiarazione, partirà per il suo primo viaggio europeo. Da martedì sarà a Bruxelles, dove incontrerà i ministri della difesa dei paesi membri dell'Alleanza Atlantica. Venerdì invece parteciperà alla 2 giorni della conferenza sulla sicurezza a Monaco. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su americanarrivato.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Io direi di dedicarla a David Bowie, che ha vinto ben 5 premi ieri sera, e di dedicargli la sua grande canzone, Rebel, Rebel. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!